Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Nella puntata numero 89 di Picchi di Frequenza, un collegamento con l'Ape di Brescia che presenta la ciaspolata al Passo dei Campelli e l'incontro con il collettivo alpino zapatista. Insieme parteciperemo il prossimo 18 febbraio ad un'escursione dal titolo Calpestiamo il confine. Vi raccontiamo perché. Ricchissima quella della montagna per quanto riguarda la puntata numero 89 di Picchi di Frequenza. Non parleremo di Nanga Parbat, non parleremo delle boutade di Messner per l'elezione di Maria Elena Boschi. Entriamo invece nel vivo dell'escursionismo che ci piace. Lo facciamo con una voce nota ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Umberto Gobbi ci presenta l'escursione che assieme condurremo domenica prossima 4 di febbraio al Passo dei Campelli. Anzi, non un'escursione, una ciaspolata. Questa settimana vi avevamo annunciato una ciaspolata per il 27, le cose sono andate diversamente, nel senso che abbiamo confermato la cena benefit per il rifugio di Aperoma in cascina autogestita popolare. Non siamo riusciti a fare la ciaspolata a causa del maltempo. Oggi siamo al telefono con una voce nota della radio, specialmente per i bresciani, Umberto Gobbi, che tra le tante altre cose è anche animatore dell'Ape Bresciana, che ci racconta come appunto l'Ape di Brescia ci ha aiutato a recuperare in corsa una gita. Parliamo evidentemente di domenica 4 febbraio. Umberto, dove ci portate? Guarda, saremo molto fortunati rispetto alla ciaspolata prevista, appunto, e saltata per il 27, perché ho visto le previsioni meteorologiche e ci sarà una bella giornata di sole e dopo praticamente invece un paio di giornate di neve, quindi ci sarà anche un po' di neve fresca, insomma una fruttatina di neve appena arrivata, perché è previsto per appunto questi due prossimi giorni, insomma, un po' di neve, e il sabato e la domenica invece bel tempo. Si andrà ai Campelli, al Passo dei Campelli, Val di Scarve, l'incontaminata Valle di Scarve, una valle in provincia di Bergamo, una valletta laterale anche rispetto alla Val Camonica. Si partirà dai fondi di Schilpario, quindi 1260 metri di altitudine, per arrivare a 1890, quindi saranno 630 metri di dislivello, in questa zona veramente molto molto bella, perché si passa nelle malghe dei Campelli, e sarà anche un percorso che si presta un po' a tutte le, come si può dire, anche preparazioni, diciamo così, fisiche, sportive, atletiche, perché chi eventualmente volesse fare solo un primo tratto potrebbe comunque venire, partire con noi e fermarsi al rifugio Cimon della Bagotta dopo 340 metri di dislivello, quindi insomma dopo un percorso assolutamente accessibile per tutti. Chi invece ha voglia andrà fino al Passo dei Campelli, e addirittura per i più, diciamo così, tra virgolette, ardimentosi, ci sarà la possibilità di salire anche al Monte Campioncino, che è a 2100, quindi insomma si avrà un dislivello complessivo di circa 900 metri. È un posto molto molto bello, piuttosto conosciuto e anche abbastanza battuto, quindi assolutamente sicuro dal punto di vista, insomma, anche dei rischi legati alla all'affrontare itinerari innevati, e molto bello anche dal punto di vista panoramico, perché si passerà sotto il Cimon della Bagozza e quando si arriva al Passo dei Campelli si affaccia sulla Val Camonica e davanti si avrà la catena dell'Adamello. Allora, visto che la strada da Milano si allunga un pochino, l'appuntamento appunto sarà alle ore 6:30 al piano terra, al quartiere Isola, per quanto riguarda i milanesi. Nel salutarti, ringraziarti e chiederti invece i riferimenti da Brescia, ti invito anche a ricordarci che insomma non una gita per soli apeini sarà quella di questa domenica. Questo è l'altro aspetto ovviamente che volevo soffermarmi un attimo, perché sarà, diciamo, non solo una gita, un'escursione intersezionale dal punto di vista della presenza apeina, per cui ci saranno Ape Brescia, ma anche Ape Milano, ci sarà anche la cascina autogestita popolare e i nostri fratelli, cugini, Camuni di Camunia Escursionismo. Quindi, insomma, sicuramente avremo anche una buona partecipazione dal punto di vista numerico, si potrà conoscere gente nuova, insomma tutte persone che affrontano, si approcciano alla montagna con lo spirito e con i valori, insomma, tipici dell'escursionismo popolare, dell'APE e quindi delle altre realtà, insomma, che comunque si richiamano a questo immaginario, e quindi sarà sicuramente una giornata molto molto piacevole. Per la partenza da Brescia teniamo il solito appuntamento alle 8, fermata metropolitana Prealpino. Per quanto riguarda invece i Camuni, l'appuntamento è alle 8:45 alla stazione ferroviaria di Boario Terme. Quindi insomma tre diversi appuntamenti. Chi volesse invece arrivare direttamente a Schilpario ci si troverà attorno alle 9:30-9:40 al parcheggio della pista dello sci di fondo. Andiamo in avanti di una settimana, dopo il racconto della ciaspolata in compagnia di Ape Brescia e Camunia Escursionismo, siamo al telefono con IGI, il collettivo alpino zapatista, in compagnia di Ape Milano, promuove un'escursione lungo un confine diverso da quello che abbiamo raccontato non più di due settimane fa, ma lascio a lei la parola, il titolo è Calpestiamo il confine. Ciao a tutti, ciao a tutte, insieme ad Ape abbiamo deciso di organizzare questa gita escursionistica il giorno 18 febbraio, domenica, proprio dal titolo Calpestiamo il confine, per segnalare appunto quello che è ad oggi un confine chiuso. aperto alle merci, aperto ai bianchi europei, ma assolutamente chiuso con violenza alle persone in transito. Ovviamente sappiamo benissimo che contraddizione, l'avete raccontato bene nelle puntate scorse, quali siano le contraddizioni che si aprono di fronte ai confini delle frontiere all'interno della comunità europea, e il caso di Ventimiglia è un caso emblematico. Il percorso che abbiamo scelto si chiama in maniera emblematica il passo della morte, non tanto perché sia di difficile percorribilità, è una città aperta a tutti, a tutte, assolutamente l'unica raccomandazione è di indossare delle scarpe adatte. La realtà è che a percorrerla, questa strada, sono soprattutto persone costrette a farlo di notte, in maniera assolutamente nascosta, chiaramente con attrezzatura non adatta ad affrontare sentieri, ed è un percorso volutamente non segnalato. Per cui esistono dei punti, e l'esempio più clamoroso è il varco immediatamente dopo la rete che segna il confine, dove le luci di Mentone nella notte richiamano quali un segnale di arrivo imminente, e in realtà se si segue quella direzione, se non si hanno segnali come oggi non ci sono per svoltare verso il sentiero corretto, si rischia di precipitare all'interno di un grosso burrone. E sono purtroppo già 14 le persone accertate che sicuramente hanno trovato la morte su questo sentiero, oltre da settembre a oggi ad altre 16 che hanno invece perso la vita cercando di attraversare la frontiera tramite la ferrovia, l'autostrada, il fiume. E quindi in qualche modo la volontà di fare una passeggiata su quel confine è anche il modo per dare dei volti alle storie che sentiamo, alle storie che abbiamo, ai dati che abbiamo sentito sui telegiornali e che in qualche modo lì prendono vera e propria vita. Escursione condivisa è una sorta di tappa lungo un percorso per noi conoscitivo, però che segnala in maniera chiarissima come quello che può essere una rotta di svago, appunto, o di conoscenza di un luogo, di un territorio, di un tema, per altri invece è proprio una rotta della speranza, ma anche una rotta della fatica, per cui di fronte al progressivo serrarsi delle tante vie che i migranti percorrono per accedere ai paesi che stanno in Europa, evidentemente dopo l'Italia che invece è un paese di attraversamento, prima Clavier e poi Ventimiglia sono due valichi che diventano molto diversi fra di loro, evidentemente uno più alpino, uno che appunto si colloca a due passi dal mare, però che sono di assoluta importanza. Oggi ci sono anche dei soggetti attivi sul territorio, quindi prima di chiudere con quelle che sono anche un po' le informazioni, gli orari della giornata, ti chiedo anche di darci due note su questo: qual è ad oggi la situazione dopo delle estati intensissime anche in termini di visibilità mediatica, di attivismo, di percorsi di solidarietà che sono rimasti evidentemente aperti, però oggi di Ventimiglia si parla meno, e anche forse per quello è il caso di tornare a calpestare il confine. Assolutamente sì, dicevi bene, il sentiero in questione è un sentiero che in termini, diciamo, confidenziali si potrebbe dire bruciato in qualche modo. A tentare quel tipo di passo, quel tipo di passaggio, sono persone arrivate al confine di Ventimiglia, ovviamente dal sud dell'Italia, da poco tempo, e che quindi non hanno particolari conoscenze, e che tentano a rischio della vita, consapevoli che potrebbero non farcela. E proprio per questo appunto è necessario mettere un focus su quel tipo di pericolosità, e le segnalazioni, i dati e la solidarietà attiva che si fa su questo territorio, che è appunto Ventimiglia, è resa più difficile, come giustamente dicevi, da un grosso silenzio mediatico. Silenzio mediatico che però non corrisponde a una quantità di persone inferiore rispetto al passato, e questo è un dato assolutamente significativo. Noi oggi sappiamo che oltre alle persone registrate presso il campo Croce Rossa, e su questo andrebbe fatto una puntata a parte, non mi fermo se non dicendo che moltissime altre, altrettante, almeno 300, sono accampate sotto il ponte lungo il fiume Roja in via Tenda, e l'unica realtà o tra le pochissime che portano solidarietà alle persone che decidono di non rimanere nei circuiti d'accoglienza istituzionali è una realtà, un collettivo che si chiama 20K, che è un progetto di solidarietà attiva alle persone in transito, e coglieremo l'occasione di trovarci a Ventimiglia per fare questa camminata simbolica, questo calpestare collettivamente il confine. E chiediamo anche a tutte e a tutti quelli che verranno di appunto portare un supporto materiale a chi oggi si trova ad affrontare, donne e bambini compresi, un inverno sotto un ponte. Sulla pagina Facebook di Collettivo Alpino Zapatista o Ape Milano trovate l'evento Facebook Calpestiamo il Confine, lì trovate una serie di oggetti che potete portare con voi per in qualche modo supportare anche il progetto di 20K. Per farvi alcuni esempi, si tratta di assorbenti esterni, rasoi, calze, guanti, poi l'elenco dettagliato lo trovate appunto sui riferimenti alle pagine. E questo tipo di attività è assolutamente fondamentale per monitorare tutto quello che, non passando dai circuiti istituzionali e ufficiali, non è né monitorato né censito, e quindi purtroppo sappiamo che anche i numeri rispetto alle morti nel tentativo di passare sono una sottostima, e quindi in qualche modo il nostro intento è anche quello di, oltre a far sperimentare di persona cosa significa, tanti a tante che non hanno potuto finora verificare cosa significa tentare di attraversare un confine in montagna in una condizione assolutamente disagevole e non tutelata, anche provare a raccontare quelle che sono le storie di resistenze rispetto alla disumanizzazione che su Ventimiglia si sta compiendo in questi anni. Perfetto, ringraziando Igi e il collettivo Alpino Zapatista per il collegamento, direi che l'invito resta aperto per la domenica 18. La partenza da Milano sarà alle ore 6.30 dal piano terra, anche qua è segnalato all'interno dell'evento. Da Genova dove ci si trova, e poi ci salutiamo? Ci si trova in Piazza Dante alle ore 8, ovviamente preghiamo tutti di segnalare bisogni di passaggio eccetera sempre tramite la pagina, e per tutti quelli che invece sono autonomi ci vediamo alle 10.30 di fronte alla chiesa di Sant'Antonio alle Gianchette a Ventimiglia. Vi auguriamo una buona trasmissione, grazie mille. Grazie a voi. West Climbing Bank, arrampicatori e attivisti in viaggio nella Palestina che resiste. L'occupazione israeliana rende impossibile ai palestinesi ogni spostamento. Checkpoint e colonie impediscono di praticare liberamente qualunque sport, persino di raggiungere le falesie che costellano tutta la Cisgiordania. Per questo, tra dicembre e gennaio, ci siamo messi in viaggio e abbiamo arrampicato assieme ai ragazzi palestinesi per affermare un principio molto semplice: arrampicata libera in libera Palestina, lo sport come mezzo per resistere. Giovedì 8 febbraio dalle 19.30 a Piano Terra, via Confalonieri 3, buon cibo, buona compagnia e i nostri racconti dalla West Bank. Per maggiori informazioni westclimbingbank.com o segui la pagina Facebook. Della contraddizione tra sviluppo turistico e conservazione, tutela degli ambienti montani, abbiamo già avuto modo di parlarne diverse volte in questa trasmissione. È un problema che ha più di 100 anni di vita, una contraddizione apparente tra queste due dinamiche e che è anche al centro di un articolo che Wilco Graf von Andelberg, dal titolo L'altra faccia della montagna, pubblica sul numero 43 di Zapruder, rivista che è interamente dedicata alle alte quote e ai conflitti di vario genere che in qualche modo investono le terre alte e le popolazioni che le vivono. Turismo e conservazione, dicevamo noi, e sostiene appunto Wilco, sono due facce della stessa medaglia, quella medaglia chiamata modernizzazione. Lo sviluppo turistico e il progresso tecnologico hanno portato di fatto a crescere il numero di persone che è stata attratta, che ha potuto accedere ad ambienti incontaminati, a paesaggi unici per i cittadini metropolitani e delle città già nel secolo scorso, ma creando una sorta di circuito vizioso per cui più turismo portava a chiedere più tutele, più protezione dei paesaggi e dei luoghi, e questi richiamavano più turismo a loro volta, in una sorta appunto di continuo gioco che con sé si portava nuove infrastrutture, strade, interventi viabilistici. E così è stato, appunto, dicevamo, già da un secolo a questa parte. Nell'articolo vengono portate casistiche a cavallo tra le due guerre, soprattutto nel secondo dopoguerra, di come soprattutto in Austria, in Germania e in Italia vi sono stati esempi notevoli di come queste due dinamiche, lo sviluppo di valli, lo sviluppo di luoghi, la loro conservazione, poi dopo se vogliamo il rinunciare ad una vera conservazione per poter portare nuovi turisti, ha visto spesso verificarsi situazioni in cui anche le popolazioni poi finivano per schierarsi a favore di uno sviluppo turistico anziché richiamare e reclamare maggior conservazione. E anche recentemente sulle nostre Alpi, in questi tempi, abbiamo avuto modo più volte di vedere come caroselli sciistici, infrastrutture viabilistiche, strutture ricettive vengono ancora richieste dalle popolazioni montane anche in ambienti già ampiamente sfruttati e saturi, in una continua ricerca da parte di queste genti di poter raggiungere modelli di vita che oggi la globalizzazione, ieri il turismo importava in quei luoghi e in qualche modo condizionava poi anche le scelte e condiziona tuttora le scelte di questa popolazione. Quello che traspare nell'articolo, la domanda che ci poniamo anche noi è se quindi è inevitabile questo processo, se per forza i luoghi belli devono vedere aumentare la necessità di infrastrutture, di servizi per il turismo di massa, se è inevitabile il ricatto per le popolazioni di montagna tra il turismo o la depressione. Per fortuna non è sempre così e Von Andelberg ci dà degli esempi dai parchi ad altre zone che sono riuscite in qualche modo a rallentare o a difendere queste dinamiche, ma il problema resta, se come trovare un equilibrio giusto tra il diritto di noi tutti a godere di posti e luoghi belli, incontaminati e la necessità di tutelarli e come conciliare questo con le aspirazioni a una vita degna o le rivendicazioni appunto per stili di vita globali da parte delle popolazioni della montagna. E come fare tutto questo se poi chi decide spesso sta in città? Ecco, questo è il vero problema. Della montagna decidono spesso le metropoli, gli abitanti delle metropoli. Questo è sicuramente uno dei mali, è un'altra storia, probabilmente un altro racconto da questa libera frequenza. A presto. Anche questa puntata, ed era la numero 89, in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Per un paio di turni ci siamo dati una pausa dall'aggiornamento settimanale sui fatti e misfatti di montagna per dedicare del tempo alle nostre vicende. Ora ci fermiamo, ve lo posso assicurare, però ci faceva anche piacere condividere con la comunità di ascoltatori un pochino quello che l'impegno che sta dietro, oltre, insomma, ai fianchi di Picchi di Frequenza. Come recuperare questa trasmissione nel caso non la conosciate, nel caso siete apparsi un po' per caso sul nostro podcast? Sono 29-30 minuti di trasmissione che parla di montagna e lo fa in una maniera assolutamente singolare. Andiamo in onda ogni venerdì, ma ci trovate tutto il resto della settimana dove? Anzitutto l'archivio completo è disponibile streaming e download sul sito amonte.info, c'è un bel blog dal titolo Picchi di Frequenza in cui potete riscoprire dagli indici tutte le nostre precedenti, in questo caso 88 puntate. C'è poi una pagina su Facebook, Picchi di Frequenza, in cui tutto ciò che non sta dentro, compresso dentro la trasmissione, lo raccontiamo in settimana con segnalazioni, informazioni, dibattiti. E c'è ovviamente l'account anche sul social network azzurro, fate riferimento ad Abuzzo3 per avere qualche news in più su Picchi. Per tutto il resto noi ci risentiamo come di consueto venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.